Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È una puntata speciale questa del cacciatore di libri perché la stiamo registrando al Salone Nautico di Genova e come ospite abbiamo scelto Marco Buticchi, che ora è in libreria con Casa di Mare, pubblicato da Longanesi. Perché abbiamo scelto questo libro? Si capisce subito dalla copertina che il mare c'entra, perché c'è una foto di un magnifico motoscafo riva. Il mare, insomma, c'entra moltissimo, il mare e le barche c'entrano in questo romanzo. Che è un romanzo tosto, secondo me è stato tosto scriverlo per l'autore, perché Marco Buticchi in questo romanzo racconta la storia vera di suo padre Albino Buticchi. Devo dire che ha avuto una vita che veramente da sé era un romanzo. Ma andiamo per ordine, si parte subito con una scena molto, molto, insomma, forte, perché parte con il tentativo di suicidio di tuo padre. Tuo padre è stato un uomo che ha segnato, insomma, la generazione anche economica degli anni 50, 60 e 70. È stato anche un dirigente del Milan, ha corso la Mille Miglia, la Formula 1, insomma, veramente... Non si è fatto mancare nulla, veramente una vita che parla da sé. Però tu inizi questo romanzo, decidi di iniziare con una delle scene che immagino sia stato più difficile da scrivere. Sì, premetto che questo in 20 anni di carriera come romanziere è stato il romanzo che ho sempre voluto scrivere e non ho mai avuto il coraggio per farlo. L'ho iniziato mille volte, senza però mai arrivare alla fine, mi fermavo dopo poche pagine per paura di mille cose, per paura di raccontare gli affari tuoi, per paura di essere sempre di parte. Vada bene che la verosimiglianza è una cosa importante in quello che si chiama oggi patto del lettore. Devi essere verosimile e spesso e volentieri ci sono dei momenti in questo romanzo che non avrei mai infilato nei miei romanzi d'avventura per paura che non lo fossero, quindi che non fossero verosimili. E invece poi alla fine mi sono tolto questo dente, è stata come una seduta psicoterapica, è forse una parola grossa. Beh, però insomma immagino che mi sono tolto un dente che mi pesava sulla coscienza da 30 anni, ma vada bene, non per piacere di raccontare gli affari, perché io ripeto spesso che, ahimè, in questo mondo tecnologicamente avanzato, paradossalmente siamo privi di memoria. Ci ricordiamo a malapena quello che ha fatto il nonno, mai quello che ha fatto il bisnonno. Se non lo mettiamo nero su bianco, non ce lo ricordiamo. E invece quando il nonno ci portava tutti attorno alla stufa e ci raccontava le fiabe di famiglia diventavano delle storie epiche, meravigliose. Ecco, per questo romanzo immagino che tu abbia parlato tanto con tuo papà, perché lo ricordiamo, lo diciamo subito, perché è una cosa, è un fatto vero e poi accade subito all'inizio del romanzo, lo si capisce. Beh, sono racconti di 50 anni di vita più o meno. Eh sì, tuo papà dopo questo tentativo di suicidio, sì, infatti tornando all'inizio, inizio dalla parte più pesante per me e forse pesante anche per il lettore, ripercorrere un suicidio maturato in maniera repentina, come penso. Un tentativo di suicidio, per fortuna. Però con una pervicacia impressionante, perché prima di riuscirci fa diverse prove, poi si spara un colpo di pistola alla testa, il proiettile gli attraversa completamente il cranio, lo lascia vivo, ma ahimè non vedente per i prossimi 20 anni. Tu da figlio ti fai anche delle domande in questo romanzo, dici com'è che si matura l'idea di arrivare a tentare il suicidio? La cosa che mi ha sempre sconvolto, non tanto l'idea, perché la vita è bella, santo cielo, ma una volta che l'hai scampata, quei pochi che l'hanno scampata, provate a pensarci, quei pochi che l'hanno scampata, che cosa ci vengono a raccontare? Cioè, per loro è stato, ammazza, un gran colpo di fortuna, non essere, ci sono riuscito, oppure porca miseria, un altro fallimento della mia vita, manco riesco ad ammazzarmi. Questa è una frase che mi ha colpito molto nel tuo romanzo, perché infatti a proposito del tentativo di suicidio di tuo papà dici proprio esplicitamente, appunto, chissà, lo considererà un altro fallimento o l'essere stato miracolato. Gli anni successivi della vita di tuo padre, che risposta hanno dato a questa domanda? La seconda che hai detto, il passato un primo un momento di grande euforia, perché essere scampato un incidente comunque tipo di provoca euforia, dice mamma bene, adesso quanto amo la vita, poi alla fine ti accanisci contro il motivo che ti ha portato a quel gesto estremo. E il motivo, oltre al di là dei fatti esteriori, è un demone che ti logora dentro. E quindi il problema è che combattere con il resto del mondo, basta sguarnare la spada e sperare di farla franca, essere bravo a parare. Ma combattere contro te stesso che fai? E quindi è stata una cosa difficile, soprattutto vista dal punto di vista di un figlio. Vada bene, Alessandra, è una, voleva essere questo un romanzo da raccontare alla famiglia, quella cosa da lasciar lì, dire le mie nipote, poi e invece a me mi è scoppiata in mano un'Italia meravigliosa. E mi anche sono perché accorto. Veramente la storia di tuo papà, la storia privata di tuo papà, ha attraversato, come si secolo, dice sempre, sì. La storia con la S maiuscola, perché ha iniziato durante la guerra, viveva in una famiglia molto povera, ha sofferto la fame, il freddo, poi c'è stata la parabola ascendente del suo successo economico, era diventata una persona assolutamente apprezzata nel mondo economico, anche se un po' chiacchierata per alcune... e soprattutto... con tutti i debiti che devi versare per avere questo successo economico. Quindi la persona che ha successo bene, ma tu immagina coloro i quali vivono questo successo di riflesso, i figli. Ecco, tu hai sentito mai il peso della figura di tuo padre nella tua vita? Sicuramente, dunque, il peso della figura di mio padre no, il peso dello status sicuramente sì. Ti spiego, io per l'amor del cielo ho vissuto una, non dico un'infanzia dorata, ma un'adolescenza sicuramente migliore di quella di mille altri miei coetanei, ma ahimè venivano di riflesso tutti i problemi. Io subisco 3 tentativi di sequestro di persona andati per a vuoto rocambolascamente, per fortuna, di cui negli anni 70, perché era il periodo in cui purtroppo papà era presidente del Milan, ne sequestravano uno al giorno. Io ho avuto un sacco di amici e miei che non sono mai più tornati a casa. Infatti lo racconti in questo romanzo, che veramente ripercorre tutte le fasi della vita di tuo padre. Adesso vorrei andare un po' in ordine per dare agli ascoltatori un po' qualche filo conduttore di questo romanzo. Allora, innanzitutto tu dici che tuo papà vive insomma una parte importante della sua vita a Cadimare, che è un paesino di poche case del Golfo della Spezia. Sì. Che legame aveva tuo papà con le radici spezzine? Beh, la terra nostra. Nella terra nostra, sai che le radici comunque rispuntano fuori come quelle dei pini, ogni tanto tornano fuori e ci devi per forza ricamminare sopra. Noi tutti siamo sempre tornati alle radici, sebbene lui sia vissuto a Milano, anch'io sono vissuto in giro per tutto il mondo, poi alla fine senti questo profumo di radice e devi per forza tornare lì. Quindi quello è il nostro golfo, quella è la nostra terra, ci manca quando non siamo lì affacciarci sul golfo e vedere i colori, ascoltare i rumori. Percepire profumi. Ecco, si capisce da subito che tuo papà Albino Buticchi aveva una mente geniale, perché il padre riparava carrozze e lui un giorno, lo racconti nel romanzo, disse: papà, ma vedi queste automobili, magari potrebbero essere il futuro se ci mettessimo a riparare automobili. E suo padre, cioè tuo nonno, disse: ma no, figurati, se sarà una cosa passeggiata. Se vivono le automobili muoio io come carrozziere. Carrozziere nel senso di carrozza. Esattamente. Era veramente così geniale tuo papà? Perché l'idea che mi sono fatta da questa, dalla storia che tu racconti, è che lui ha avuto sempre la capacità di capire in anticipo. Ti faccio un esempio. Nella parte finale della sua carriera lavorativa, a un certo punto si imbarca in un'impresa di trasporto di petrolio dalle raffinerie di Kirkuk, Hadith e Samarra, quindi 3 raffinerie nel centro più o meno dell'Iraq, poco a nord di Baghdad. E questi avevano un surplus di prodotto che per le nostre raffinerie, quindi per le raffinerie mediterranee, era assai apprezzato. Il problema era come portarlo fino alla costa e poi imbarcarlo sulla nave. Lui dice: beh, facciamo con dei truck, con dei camion. E quindi inizia questo contratto, che poi purtroppo non si porta a termine, ma di trasporto via camion, 1000 camion che trasportavano prodotto per riempire una nave, che veniva poi stornato in Turchia. Ecco, qualcosa di analogo al mio è stato fatto ultimamente dall'ISIS. Quindi contratti di questo genere sono andati avanti da 40 anni fa, quando lui diceva: facciamo così. Ed era un'idea insomma innovativa per l'epoca. Era un'idea assurda, perché nessuno ci aveva mai pensato. Lui diceva: ma come, quando c'era la crisi del petrolio, a caricare nei miei depositi venivano dalla Sicilia, dalla Svizzera, dalla Germania, perché non c'era prodotto? Certo. Facciamo la stessa cosa. Ecco, sul petrolio tuo papà ha avuto un fiuto particolare, perché insomma inizia, tu lo racconti anche in modo molto sincero, perché inizialmente faceva il contrabbandiere, del carburante delle barche, del motopesca, dei pescherecci. Ci racconti questo particolare? Dunque, la premessa è che i tempi erano diversi e i tempi in cui bisognava arrangiarsi per fare l'Italia, santo cielo, oltre che per fare le proprie tasche, quindi per togliersi dalla fame e dal freddo. Ma lui dice, essendo i prodotti agricolo e motopesca, prodotti agevolati, quindi con tasse nulle oppure inferiori, lui incomincia a dire: beh, ma scusa, vi assegnano del gasolio agevolato ai pescherecci, ma lo consumate tutto. Ma no, ma tu sei matto, per consumarlo tutto dovremmo andare tutti i giorni a calare reti fino in Corsica. E che ci fate con quello che resta? Ma non lo ritiriamo, dicono loro. E quindi lui dice, beh, lo ritiro io. Ma ci sono i manometri, daremo una sistemata anche a quelli. Dice. E quindi così inizia a riempirsi le tasche di denari. E poi vedi che questo mondo petrolifero alla fine regala dei grandissimi frutti. Quindi quello è stata insomma l'impresa, l'azione imprenditoriale più potente insomma, sì, di tuo padre. Oltre il limite della legalità, però sì, quello. Diciamo che con il petrolio. Con il petrolio ha fatto i denari. I soldi, sì, insomma. Sì, no, io pensavo all'inizio. No, con il petrolio ha fatto i denari, è diventato, poi tramite il mondo dell'automobilismo, è diventato un agente, diciamo, jobber si chiamava ai tempi della BP per l'Italia, e da lì inizia la sua carriera. Era il rappresentante italiano di una delle sette sorelle, insomma, certo, quindi certo. Era in una posizione assolutamente strategica. Ci fermiamo per un attimo, poi continueremo a parlare del romanzo di Marco Buticchi, Casa di Mare, in cui si racconta la storia affascinante di suo padre, Albino Buticchi. Il cacciatore di libri. Riprendiamo a parlare dal Salone Nautico di Genova, dove stiamo registrando questa puntata speciale del Cacciatore di Libri, a parlare del romanzo Casa di Mare di Marco Buticchi, pubblicato da Longanesi. La storia vera di suo padre Albino Buticchi, che è stato veramente insomma una figura nota per decenni in Italia, perché ha attraversato fasi cruciali della storia italiana e l'ha fatto da protagonista, nel bene e a volte anche nel male. Prima della pausa avevamo accennato alle avventure di Albino Buticchi con le automobili, perché tuo padre ha corso la Mille Miglia, ha iniziato anche la Formula 1, cioè aveva sempre delle passioni, aveva bisogno sempre di una passione nuova, una passione nuova esaltante, che lo esaltasse. Esaltante, e aveva bisogno di correre i rischi. Però il buffo era come te ne parlava dei rischi. Quindi, ad esempio, Alfonso, quel portoghese, stavamo parlando. Alfonso, portoghese, stavamo parlando. Sì, quello che poi a me muore durante la Mille Miglia. Papà, Alfonso de Portago, uno tra i piloti più grandi del mondo. Non ha vinto niente, ma è passato alla storia. La Mille Miglia finisce con... ma lui arriva nono, quindi è di fatto tra i 9 migliori piloti al mondo in quel momento. Cioè uno che corre con Fangio. Ecco, raccontava queste cose tuo padre? La cosa disarmante era la normalità. La normalità con cui, cioè, sembrava una cosa, come diceva, allora sono andato dal lattaio, ho comprato 2 litri di latte, però una bottiglia mi si è rotta. Ma sono partito la Mille Miglia, sono andato, mentre tu stavi venendo al mondo, quindi 2 maggio 1957, lui sta provando una Ferrari lungo il percorso. Tua mamma era incinta di te. La schianta contro un albero e poi chiama a casa per dire, poi i giornali della radio avrebbero dato la notizia, chiama a casa per dire guarda è successo, dico no, Maria Luisa, mia mamma non c'è perché è in ospedale. Io vengo al mondo mentre... E allora lui ruba una macchina di quelle che usavano per le prove nel team. E corre in ospedale da tua mamma, giustamente. E poi il 12 maggio, mi sembra che sia, corre questa ultima Mille Miglia, quella del 1957, con una Ferrari Tour de France, una macchina di scaglietti bellissima, per una Gran Turismo, riesce a piazzarsi tra i più grandi piloti del mondo. Però a proposito del suo rapporto con le auto, è vero che era una persona che amava sempre esperienze magari anche estreme, nuove eccetera, ma aveva anche un grande senso del limite, perché tuo padre decise a un certo punto di non avventurarsi ancora nella Formula 1, com'è, perché capì il suo limite, capì quanto il limite fra vita e morte poteva essere. Sì, è vero, così. Però non riesco, ma non sono mai riuscito a capire quanto fosse il limite e quanto fosse il subentro di una nuova passione, capito? Perché che era quella del calcio. Sì, perde la Formula 1 e incomincia a innamorarsi del calcio. Quindi... E insomma, un Albino Buticchi che si innamora del calcio non diventa semplicemente tifoso con la tessera e va allo stadio, ma Presidente, si prende il Milan. Sì, lui diventa uno tra i presidenti di Serie A più giovani in assoluto ai tempi, penso ancora oggi. Di fatto a 45 anni lui diventa maggior azionista dell'associazione Calcio Milan S.p.A. Era una cosa che lui voleva fare, almeno da quello che emerge dal romanzo, proprio la sua scalata al Milan già negli anni 50, lui 50, dal 52 al 54 diventa presidente dello Spezia, e anche qua un'altra genialata, chiamiamola. Lo Spezia naviga in cattivissime acque, i giocatori non vengono pagati da diverso tempo, lui diventa presidente. E dice, ma scusa, ma non c'è una squadra che navighi in acque peggiori delle nostre, ma in miglior divisione? Quindi si inventa una fusione dei titoli sportivi con l'Arsenal Spezia, una squadra che era in quarta divisione, mentre lo Spezia navigava ancora peggio. Si inventa la fusione, siccome nelle fusioni vale il titolo più alto. Aveva fatto arrivare tutte e due le squadre. Lui si è vinto un campionato. Si è vinto un campionato non facendo fatica. Beh, questa è genialità, sì, però. Sì. Questo è essere. E la presidenza del Milan pensa in questo suo primo anno da presidente gli regala delle soddisfazioni enormi. Dunque, il Milan è vicino alla triplete. Vince la Coppa Italia, vince la Coppa delle Coppe a Salonico in una finale al Cardiopalma con il Leeds. Vincerà la Coppa Italia. È prima in classifica per tutto il campionato, un punto di distanza dall'inseguitrice, la Juventus, e nell'ultima giornata le slide indoor della mia famiglia. Io ogni volta, sì, ogni tanto lo dico, che cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la Fatal Verona, quella che passerà alla storia come la Fatal Verona. Che poi ha cambiato appunto anche il corso della vita di tuo papà, perché poi alla fine lascerà la presidenza del Milan. Sì. C'è una frase che ho sottolineato nel tuo romanzo, dove tu dici: ho sempre ammirato in lui l'umiltà con cui si poneva dinanzi ai suoi interlocutori. Umile non vuol dire che non fosse ambizioso, ma che non smetteva di imparare da chi gli era accanto, perché era convinto che tutti avessero qualche cosa da insegnargli. Mai ha taciuto o rinnegato le sue origini. Lui era arrivato veramente nella dirigenza, nel Gotha internazionale della finanza italiana. Ogni volta lui racconta, e quello che non ho mai capito era se lui dicesse questo come un'excusatio non petita, quindi scusatemi, scuso se sbaglio un congiuntivo, hai capito? Tuo papà aveva la seconda elementare. Seconda elementare, sì. Scusate se sbaglio un congiuntivo, però guardate, oppure perché se ne faceva vanto, quindi diceva: ragazzi, io sono arrivato fino a questo punto. Però era un uomo schietto, almeno sì. L'idea che mi sono fatta da come lo racconti. Beh, sicuramente tu, non aveva peli sulla lingua. Non aveva peli sulla lingua. Non li ha mai avuti. E c'è un punto dove tu dici: non aveva paura a lasciare, diciamo, compagni di strada, diciamo, amici, sì, che in quel momento non riuscivano più a seguirlo nelle come sue. Come una crisalide, dopo avere una farfalla che abbandona la crisalide dopo averne succhiato tutta la linfa vitale. Ecco, poi ci sono naturalmente i rapporti con le donne, che sono state fondamentali nella vita di tuo padre. Era un uomo assai bello, insomma, diciamo, era un bell'uomo, bello, affascinante. Era un gran bell'uomo. Poi tu immaginati ai tempi uno che correva in Formula 1, bello correva in Formula 1, ricco. Era ricco, bello. Non gli mancava nulla. Con mamma si separa dopo, quando io ho pochi mesi, quindi più o meno libero, deve aver fatto carne da macello. E da lì nasce la copertina, perché pur di togliersi dalle scatole i bambini, mia sorella ed io, lui ci diceva: andate fuori in motoscafo, ci metteva a disposizione questi bellissimi motoscafi Riva con cui andavamo a fare delle gite bellissime con gli amici. E lui era libero di fare. E lui così diceva, i ragazzi sono sistemati. Come figlio, capisco che sia difficile, però hai deciso di pubblicare, quindi dare in pasto al pubblico la tua vita privata. Premesso che buona parte di queste sono questioni pubbliche, perché sono andate sulle prime pagine dei giornali. Sì, anzi, tu hai raccontato quello che c'era dietro, certo, perché magari i giornali raccontavano solo la superficie, gli scandali, anche la causa con una donna che reclamava la paternità dei suoi tre figli. Insomma, sono tutti fatti storici. Infatti, alla fine del romanzo ci sono delle foto anche che riproducono questi giornali. Ma come figlio, tu che idea hai di tuo padre? Lui come è stato? È stato un padre importante e un padre ingombrante, lo dico all'inizio. Lui rasentava nelle sue manifestazioni esteriori, poi magari dentro aveva il cuore che gli rodeva, l'anaffettività, e mentre invece poi si lasciava andare a slanci d'affetto impressionanti. Purtroppo, come tutti i padri abbastanza assenti, perché io vivo con mamma fino a 16 anni, come tutti i padri abbastanza assenti, pensano che l'affetto dei figli sia una merce di scambio e quindi te lo comprano. Quindi quando arrivava papà, certo erano bei regali, però poi la figura del padre alla fine. Però poi tuo padre ti ha voluto accanto a sé a Milano quando tu sei cresciuto, perché voleva trasferirti il suo sapere. Questa nostra vicinanza non è durata moltissimo, perché io ho subito questi tentativi di sequestro di persona, che sono delle cose che segnano un ragazzo, segnano assai. Adesso fa molto bello andare in giro con la scorta, eccetera. Un ragazzino di 17 anni, 16 anni, quanti ne avevo io? Non avevi la libertà. Che non ha libertà, è una ti castri l'adolescenza, quindi se vuoi soltanto vedere un amico non ti è possibile, perché devi comunicarlo, devi farti seguire, eccetera. Quindi, erano veramente altri tempi. Infatti, attraverso la storia di Albino Buticchi noi ripercorriamo la storia dell'Italia, l'ho detto, dalla Seconda Guerra Mondiale, il dopoguerra, il boom economico, la crisi. E vada bene che è un'Italia meravigliosa, perché io il coraggio lo trovo quando una trasmissione nazionale mi chiama e mi dice: senta, noi vorremmo fare una puntata sugli uomini che hanno fatto l'Italia, suo padre è uno di questi, lei dovrebbe venire a raccontare suo padre, se non se la sente lo facciamo noi. Anche dico: no, non posso lasciare ad altri le memorie mie. E allora sono andato e mentre raccontavo dicevo: ma accidenti, ma questi hanno fatto l'Italia. In questo romanzo si parla anche di mare e di barche, visto che siamo al Salone Nautico, lo diciamo, accennavamo prima ai motoscafi Riva, dove tuo papà mandava te e tua sorella appunto per togliervi un po' di torno, ma lui aveva un profondissimo rapporto con il mare, ma soprattutto con le barche, anche da giovanissimo si era imbarcato, è vero, prima in maniera militare, però ho dimenticato di dire la legione straniera, quella certo, è un'altra parentesi importante, disertore, insomma, veramente una vita avventurosa. Che legame aveva lui e che legame hai tu col mare? A prescindere dal fatto che vivo di mare e sul mare, quindi vivo da uno stabilimento balneare, quindi tu gestisci uno stabilimento balneare, quindi sei un uomo di mare. Però io ho sempre detto: anche un guscio basta che galleggi, quindi l'importante è il contatto con il mare. Per giungere alla fine un po' del libro e anche della storia di tuo padre, per far capire agli ascoltatori, tuo padre a un certo punto, fin da piccolo, aveva la passione un po' per il gioco d'azzardo, perché suo fratello lo portava a giocare a dadi, a carte. Purtroppo tuo padre ha perse tutto il patrimonio giocando per il vizio del gioco, ed è per questo che arrivò appunto al tentativo di suicidio. E guarda, io non mi pongo mai in cattedra, non giudichi, sono tanti, in questo caso invece mi sento in dovere di dire che oggi c'è questo eufemismo, lo chiamiamo ludopatia, invece è un maledetto vizio dal quale bisogna stare lontani, perché a differenza degli altri vizi capitali come la droga, che ti rimbambisce prima o poi, il gioco non ci riesce, e quindi la persona rimane lucida di fronte a qualsiasi cosa tranne perdere completamente il valore di tutto, non solo del denaro ma proprio degli affetti, della famiglia, di fronte al, dico, lo sgocciolio tintinnante delle slot machine, il rotolare della pallina, il soffice lancio dei dadi, perdono completamente la testa. Fatto poi salvo il fatto di tornare persone normali, nelle terribili diatribe, e vi assicuro che sono state terribili, che abbiamo avuto, quando poi lui tornava alla persona che era stata, pur cieco, vedevi che aveva perso qualche parte del suo controllo per questo maledetto vizio. E poi quando il demone risaliva, ricominciava a pensare ai numeri, al modo di scardinare una sorte che comunque è vincente in partenza, quindi è impossibile scardinarla. Tu concludi questo libro naturalmente con la morte di tuo papà, avvenuta poi per cause diverse. È una pagina molto intensa, molto tenera, che naturalmente non rileggo qui, anche per non voglio, assolutamente, capisco che sono cose personali. Le ho scritte, però sì, sono però cose sentirle dire, capisco che possono creare un'emozione particolare, poi giustamente i lettori avranno il piacere di leggerle. Però vorrei chiederti, se dovessi oggi alla tua età dire qual è l'eredità più grande che ti ha lasciato tuo padre, visto che non c'era un'eredità fisica, come dire, l'eredità morale, l'avermi regalato anni spensierati, l'avermi insegnato a vivere, e soprattutto il fatto che nel male sono diventato grande in una notte, quindi mi sono addormentato una notte che ero un rampollo di ottima famiglia e mi sono svegliato al mattino con i casini che avevano in testa, che avevano portato una persona come mio padre a spararsi in testa. Grazie a Marco Buticchi soprattutto per la schiettezza con cui ci ha voluto raccontare questo libro. Credo che non sia facile, perché un conto è scriverlo e darlo ai lettori, un conto poi è parlarne. Beh, spero che insegni qualcosa questo libro. Io sono convinta di sì. Il libro si intitola Casa di Mare, ha un sottotitolo significativo, Una storia italiana, perché la storia di Albino Buticchi, padre di Marco Buticchi, veramente ha attraversato gli eventi più importanti, possiamo dire, del Novecento italiano. Il libro è pubblicato da Longanesi. Grazie Marco Buticchi, è tutto per questa puntata speciale che abbiamo registrato al Salone Nautico di Genova. Vi ricordo che trovate tutte le puntate, questa e anche alle altre, su radio24.it. Una buona lettura a tutti, da Alessandra Tedesco.